Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, 8:19 primi 41 secondi qui in diretta agli studi di Milano, una nebbiosa Milano in questo 9 dicembre, venerdì, anche oggi senza Alessandro Milan che dovrebbe tornare con noi lunedì, un abbraccio da parte mia e da parte di tutti voi ad Alessandro. E in questa puntata di Attenti a noi due ospiti, ve lo dico subito, su due questioni. La prima mi ha colpito molto perché ieri il capo della polizia Gabrielli ha detto basta militari nelle strade italiane, ha fatto capire che si tratta di una misura comprensibile ma non efficace. Il problema, ha detto il capo della polizia, sono le risorse da dare in più alle forze di polizia. Allora parleremo di questo con un ospite, perché l'ha detto in occasione di un convegno organizzato da un sindacato. Non è abituale che in Italia si parli così fuori dai denti da parte del capo della polizia, e questa notizia è da incardinare sull'andamento intanto dell'immigrazione nel nostro paese, perché vedrete ci sono due articoli oggi che vi richiamerò che fanno capire che qui va bene avere la testa sulla crisi di governo, ma poi ci sono i problemi reali che sono molto molto molto forti, perché i migranti continuano il fenomeno dei profughi continua ad assumere fenomeni numerici totalmente maggiori degli anni alle nostre spalle, e nel frattempo il numero dei sindaci e dei comuni del no all'accoglienza è cresciuto a livelli molto molto forti. C'è un problema istituzionale forte di mancata convergenza nel nostro paese su un modello. Ecco come leggere le parole del capo della polizia. Quindi, primo tema, se volete intervenire, più polizia invece che forze armate. Il secondo invece è un tema che potrà interessare, riguardare soprattutto i veneti, gli ascoltatori veneti, però riguarda noi tutti, perché ieri diversi quotidiani italiani riportavano la notizia, la novità per la quale il Consiglio regionale del Veneto ha visto approvare una risoluzione, una proposta di legge regionale per il riconoscimento del popolo veneto come minoranza nazionale, e questa norma è stata votata a maggioranza con 27 favorevoli, la Lega, la lista Zaia, tre consiglieri del sindaco di Verona Tosiani, ed è una legge regionale per la quale ovviamente adesso si tratterà di formalizzare l'utilizzo del dialetto veneto come una vera e propria lingua da questo punto di vista, e però naturalmente ci sono delle implicazioni anche sulle risorse, su una forte richiesta di aumento delle risorse proprio del Veneto rispetto al Stato centrale. Allora sentiremo due voci, uno dei proponenti e uno che è un po' critico invece su questa proposta di legge, ma anche qui è da incardinare su la fine di 20 anni di chiacchiere sul federalismo. Eppure c'è chi dal basso, come vedete, non ha affatto rinunciato, anzi lo fa in una prospettiva ancora più dura e pura. Non è un puro fenomeno di colore secondo me, ma è una maniera per riflettere su ciò che il post nostra riforma costituzionale tramite referendum lascia del tutto aperto, visto che noi non abbiamo riordinato le regioni, non ne abbiamo rivisto le competenze sulle quote parte di autofinanziamento rispetto allo Stato, abbiamo lasciato le regioni a statuto speciale. Ecco, quindi su queste due questioni, se volete, telefonateci per diteci cosa ne pensate di questo venetismo riconosciuto in questo progetto di legge, puro fenomeno di colore, oppure se siete di là, no, al contrario, è il rilancio di una strada di conflittualità rispetto allo strabordare dello Stato centrale. Prima di andare alla prima questione, lasciate che vi segnali due o tre cosette dei giorni di oggi che mi hanno molto colpito. Innanzitutto, giustamente mi si fa notare i santi, è vero, 9 dicembre, oggi San Siro, San Siro di Pavia. San Siro di Pavia nella geografia dei santi italiani addirittura considerato un discepolo di Pietro che stava con Gesù il famoso giorno della moltiplicazione dei pesci e dei pani. Perché questa retrodatazione? Perché era un modo attraverso cui la Chiesa di Pavia, rivendicandolo come primo vescovo e addirittura nel primo secolo d.C., pretendeva di essere più antica di quella di Milano, da cui invece dipendeva come diocesi. Quindi, come vedete, a volte i santi servono anche a fondare polemiche terrene, per così dire. Eppure i resti di San Siro sono comunque nella cattedrale di Pavia, ma molto probabilmente si tratta di un vescovo di Pavia del terzo secolo. Tra gli altri santi, quelli minori di memoria facoltativa del giorno, auguri a chi si chiama Vittore, San Vittore di Piacenza, a chi si chiama Cipriano, mentre nelle cose da ricordare avvenute oggi, cosa vogliamo ricordare? Ricordiamo nel 1979, oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità proclamava la fine del vaiolo. Solo 2 anni prima c'era stato l'ultimo caso registrato in Somalia. Speriamo che non torni. Si deve alla vaccinazione, alla scomparsa del vaiolo, tanto per toccare un altro punto riaperto nel nostro paese, vista la propensione di molti a non vaccinare i figli. Nel 2003, oggi, la RAI assumeva la decisione di chiudere Rai Hot di Sabina Guzzanti per l'eccesso di satira nei confronti della politica. Vi dico questa cosa perché i giornali italiani non si sono resi conto di dirvi che nelle tante norme di cui a seguito della crisi di governo oggi i diversi interessi italiani sono in attesa, cioè in attesa del decreto mille proroghe, sapete che è quello entro fine anno in cui si dà una risposta a tutti coloro che sono in attesa di una prebenda, una risposta da parte pubblica nel nostro paese. Io lo abolirei il mille proroghe, devo dirvi la verità. Ecco, nel mille proroghe, a proposito di Rai, c'è un'attesa da parte dell'azienda pubblica, perché il 31 gennaio dovete sapere che scade il contratto di concessione del servizio pubblico della Rai. L'hanno già prorogato 2 volte, senza alcun dibattito. Alza un po' la voce per farvi notare che quando si tratta di mettere il canone in bolletta e di pagare, tac, scatta tutto per decreto. Quando si tratta invece di ridiscutere cos'è il servizio pubblico e come affidargli la concessione di servizio pubblico, non c'è nessun dibattito, malgrado le promesse innumerevoli volte alla Leopolda e così via, e si proroga adesso, dopo 2 proroghe, scade il 31 gennaio. La RAI chiede la proroga di un altro anno, senza nessuna discussione. Vi pare giusto? A me no, ma sono rassegnato, figuratevi. Viviamo in un paese fatto così. Le altre cose che volevo segnalarvi, per chi volesse capire un pochino meglio che cosa bolle sotto la pentola delle consultazioni del capo dello Stato, a me ha molto colpito oggi la precisione con cui i colleghi di alcune testate ricostruiscono la portata numerica, cioè il peso considerevole delle diverse anime del PD, per far capire meglio come qualmente in realtà intorno a Renzi ci sia una macchina che si è ricomposta secondo le correnti interne, no? Non tutti i suoi ordini, per così dire. Ecco, e da questo punto di vista ci sono articoli come sul Corriere della Sera, quello di Monica Guerzoni sulle correnti del PD, sulla Stampa ne trovate uno analogamente con l'attribuzione del numero di componenti delle correnti, Fabio Martini. Sul Messaggero trovate un articolo addirittura con l'attribuzione numerica, lo firma Emilio Pucci a pagina 7, sospetti PD, ora è sfida sui numeri. Ecco, quello sul Messaggero è quello più esplicito, ma sono i numeri più o meno che trovate in tutti gli altri 2 articoli che ho citato, e i numeri sono rilevanti perché secondo l'infografica del Messaggero di oggi, tanto per avere un'idea relativa al peso delle correnti all'interno dei gruppi parlamentari del PD, ricordo tutti che i parlamentari del PD sono oggi 301 alla Camera su 630 deputati, 113 senatori su 320 componenti del Senato. E pensate che in totale i renziani DOC, ricordate che il partito che guida Renzi in realtà era un partito i cui organi e i cui eletti erano scelti da Bersani, no? Quindi questo spiega questi numeri. Però i renziani sono in tutto 66, quindi un numero relativamente basso, basso, cioè 66 su 414, perché per esempio a Franceschini, che tutti i giornali indicano come il vero regista di quello che sta succedendo e potrebbe accadere con la nomina dell'incaricato da parte del Presidente della Repubblica entro domenica, a Franceschini ne fanno capo 122, cioè doppio che a Renzi. I giovani turchi di Orlando Orfini, che hanno un candidato alla segreteria, pare, secondo alcuni forti, appunto Orlando, e i giovani turchi sono 57. Il ministro Martina fanno capo altri 50 parlamentari del PD. I bersaniani sono 54, Cuperlo ne ha 10. Quindi, come vedete, altro che la direzione aperta e chiusa in 5 secondi, c'è un'articolazione interna che potrebbe dare molte sorprese. Ecco, prima di passare al primo ospite, lasciate ancora che vi dica il tema dell'economia reale, che pesa molto, più di quanto i giornali generalisti non sembrano farvi capire. Oggi si apprenderà da che cosa deciderà la vigilanza bancaria BCE, se entro questo stesso fine settimana questo stesso governo dovrà emanare un decreto urgente per intervenire su MPS e non solo su MPS. Tra i giornali generalisti quello che capisce meglio l'urgenza di questa questione, secondo me, è Repubblica, con un pezzo di Andrea Greco, quindi con due pagine dedicate a questa vicenda. E lasciate che vi dica la mia enorme sorpresa nel assistere al fatto che l'intera informazione italiana ha assistito in questa settimana al fatto che Unicredit, la grande banca di rilievo sistemico europeo, l'unica che abbiamo in Italia, costretta a smontare rapidamente tutte le posizioni sue sull'estero e sull'Europa, oppure le più importanti. Ieri l'ultimo pezzo è caduto, ha ceduto per 2,4 miliardi la banca Pekao che controllava in Polonia, e tutto questo per diminuire l'importo del prossimo aumento di capitale. Abbiamo smontato la grande banca europea internazionale che doveva e poteva accompagnare le imprese italiane all'estero. Di tutto questo la stampa generalista non ha capito né l'importanza, purtroppo molto negativa, né l'implicazione che questo avrà per il futuro, e passa come un'informazione tecnica per addetti ai lavori. Peccato, perché l'inconsapevolezza di questi temi concreti molto rilevanti rispetto allo spazio dato alle chiacchiere, che dà l'idea di un'informazione, secondo me, lontana dalle cose reali e troppo presa dalle chiacchiere politiche. Allora, andiamo alla prima questione che avevo richiamato, quella dell'emergenza sicurezza e militari. Franco Gabrielli, che guida il Dipartimento, appunto, della Pubblica Sicurezza da alcuni mesi, si è espresso in un modo che mi ha lasciato senza parole, perché vi leggo il virgolettato: sul tema dell'utilizzo dei militari per il contrasto al crimine bisogna uscire da un equivoco. Noi li ringraziamo per il loro contributo, ma un conto è il presidio di alcune zone, un altro è il controllo del territorio. Il controllo del territorio può essere attribuito solo alle forze di polizia. E a questo punto Gabrielli ha detto: inutile che continuate a chiedere più militari per le città, e ha aggiunto: dovremo porre, ha detto il prefetto Gabrielli, una pregiudiziale al governo che verrà, anche trovando forze nuove. Significa soldi, risorse, che malgrado le dichiarazioni ufficiali di componenti del governo, il capo della polizia dice che non bastano ai poliziotti. Allora, tutto questo avveniva in occasione di un evento organizzato dalla SILP CGIL, ed abbiamo con noi il segretario nazionale Daniele Tissone. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Sorpreso dalle parole di Gabrielli? No, non per nulla. Io credo un tema che noi abbiamo introdotto spesso, quello dell'utilizzo dei militari. Credo che il vero problema però sia quello oggi di garantire gli interessi dei cittadini e non di qualche politico o ministro che di volta in volta sposa una divisa, perché qui ci sono una serie di interventi mancati su una politica della sicurezza urbana. Penso ad esempio a tutte le risorse che si potrebbero ottenere con eliminando il personale che all'interno delle forze di polizia si occupa del semplice disbrigo delle pratiche burocratiche del rilascio dei permessi di soggiorno, si tratta di circa 6.000 persone insieme a quelle che rilasciano i passaporti che potrebbero occuparsi di controllo del territorio. Mi sembra che Gabrielli abbia detto una sacrosanta verità, anche perché sono diversi e sono distinte le mission del soldato come quelle del poliziotto. Senta, si parla di un buco negli organici della polizia, 17.000 unità, dall'altra parte però l'informazione è abituata a vedere lamentazioni su questi numeri e quindi dice vabbè, adesso sono cifre esagerate. Qual è la verità? Sta in mezzo o è fondata la cifra? Ma la verità è, cioè, è nella misura in cui esiste un organico che è sottodimensionato di circa un 12%, non riguarda solo la Polizia di Stato ma bensì anche l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, è vero perché rispetto ai 113.000 uomini che ci vorrebbero, oggi in polizia ce ne sono 99.000, ma mi faccia anche dire che tutti questi anni purtroppo il fenomeno della burocrazia è aumentato e purtroppo l'età media è del tutto stata elevata a circa 46-47 anni medi. Quello che ha detto il capo della polizia è un'altra verità, e che ha detto che piuttosto che spendere 100 milioni all'anno per utilizzare i militari sarebbe meglio fare nuovi concorsi per nuovi poliziotti, soprattutto agenti nuovi, giovani e soprattutto donne che ne mancano. Ma non c'è un'eccezione più rilevante al turnover nelle forze dell'ordine rispetto al resto della pubblica amministrazione, cioè a rinnovare in quota più elevata chi lascia per pensionamento in relazione all'età media, perché l'età media si innalza grazie a questo fenomeno che è stato decretato e praticato da anni? Allora, l'età media delle forze di polizia in Italia è la più alta d'Europa. Basti pensare che negli Stati Uniti già all'età di anagrafica di 50 anni si può andare in pensione, anche in Francia c'è una misura simile. L'età media del poliziotto italiano va da 45 a 47 anni. Il problema del turnover è che questo è stato ridotto al 55%, ma per farle solo un esempio, ogni anno vanno via 2.500-2.600 poliziotti e se ne assumono all'incirca 1.000. Peraltro non si assumono più come accadeva una volta giovani di 18, 19, 20 anni, ma questi ragazzi hanno, che provengono dalla vita militare, hanno dai 25 ai 28 anni e poi giungono peraltro da quello che è un modello di tipo militare, molti provengono anche da teatri di guerra, mentre prima avevamo le assunzioni dirette civili, dalla vita civile di giovani e in particolar modo di donne. Oggi il numero in percentuale delle donne rimane lo stesso perché sono più anziani maschietti che vanno in pensione prima, però se prima si assumeva un 40-50% di donne a ogni concorso, oggi attraverso la vita militare se ne assumono un 6-7%. Ah, un 6-7%. Allora, intanto grazie a Denetti Sone per l'attività che pongono in essere e anche per, come avete sentito, per aver offerto l'occasione al capo della polizia di dire che hanno ragione nel sottolineare questi numeri. Io lo ringrazio in particolare perché ritengo che continuiamo a occuparci un po' troppo poco di uno dei fronti che segna il termometro della percezione pubblica della sicurezza. Sto parlando in particolare appunto del fenomeno dell'immigrazione, di quello che ciò comporta nel nostro paese. Oggi trovate su La Stampa un articolo che testimonia come il numero di comuni che ufficialmente dichiarano al Ministero dell'Interno, ricordate, il Ministero dell'Interno ha lanciato una nuova prospettiva di consultazione per evitare i contrasti sul fatto che siano i prefetti a dover decidere le allocazioni aggirando i comuni e così via, e quindi la promessa era stata quella di fissare un rapporto rispetto alla popolazione condiviso rispetto al numero di immigrati per diffonderli meglio nel territorio italiano ed evitare le concentrazioni numeriche e quantitative. Eppure siamo arrivati oramai alla cifra di 5.400 comuni su un totale di 8.100, come sapete, che non si riconoscono e dichiarano ufficialmente di non aderire a questa prospettiva. Allora capite che in un paese nel quale sono 5.400 i comuni che non si riconoscono nello schema di gestione dell'allocazione dei profughi, è un paese in cui c'è una fortissima tensione in aumento dal punto di vista istituzionale. Questo ha a che fare direttamente con la percezione pubblica della sicurezza. L'articolo, a dire la verità, è su Repubblica, ho sbagliato prima, lo trovate a pagina 13, lo firma Vladimiro Polchi. Eccoli qua, i sindaci antiprofughi in Lombardia e Piemonte, 2000 e no all'accoglienza solo in quella regione, ma sono 5400 i comuni che hanno chiuso le porte. Le uniche due regioni in significativa controtendenza sono Toscana ed Emilia, ma su tutto il resto i no prevalgono assolutamente. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da BMW Innovation, le risposte prima delle domande. Scoprile su innovation.bmw.it. 24 mattino, attenti a noi due. Ed eccoci qui tornati, cari ascoltatori. Oscar Giannino senza Alessandro Milano oggi, ma dovrebbe tornare lunedì, e andiamo subito alla seconda questione che avevo annunciato. Dopo quella avete sentito del capo della polizia che dice basta militari per le strade, abbiamo bisogno di più risorse economiche e finanziarie, ma anche umane, per la polizia. Chi davvero è in grado di affrontare tutti gli aspetti dell'emergenza sicurezza. E vi ho segnalato sullo sfondo una crescita fino a 5.400 unità dei comuni che dicono no al progetto di condivisione dei profughi proposto dal Viminale e dal FAN. 5.400 su 8.100, quindi c'è un'emergenza vera, anche perché nel frattempo nei primi 11 mesi il numero degli sbarchi in Italia ha a somma la cifra di 177.000 unità rispetto a 151.000 del 2015, quindi siamo lontanissimi dal avere sotto controllo il fenomeno. Andiamo alla seconda questione, la seconda questione che ieri è scoppiata sui giornali italiani. Perché? Perché il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una proposta di legge per il riconoscimento del popolo veneto come, tra virgolette, minoranza nazionale. Quindi da questa formula di riconoscimento ne deriverebbe tutta una serie di nuove tutele, dal bilinguismo, quindi l'insegnamento e l'utilizzo del veneto come lingua, posti riservati nella pubblica amministrazione come nelle province autonome di Trento e Bolzano, e naturalmente rivendicazione di più risorse proprie alla regione Veneto rispetto al fisco dello Stato nazionale. Tutto ciò deriverebbe dall'applicazione della Convenzione Quadro Europea per la tutela delle minoranze. Appunto, se si è minoranza nazionale, e il Veneto prende ufficialmente questa posizione, si apre una lunga questione, quella di un rapporto più equilibrato tra centro e periferia, fondata però questa volta non più sulla secessione all'indipendentismo, però sul riconoscimento di una forza propria da far valere nei confronti dello Stato centrale. Vi segnalo che non è solo per coloro che ne hanno parlato alcuni grandi quotidiani nazionali tipo La Stampa ieri, oggi trovate per esempio sul Fatto due pagine dedicate sul Fatto Quotidiano a questa stessa questione, che la inquadra nello stesso risultato fortemente ostile al governo per quello che riguarda il referendum da parte del Veneto. Il ritorno del Veneto indipendentista che sfida il governo è il titolo del lungo articolo di Giuseppe Pietrobelli. Allora, per capire meglio i pro e i contro di questa questione, abbiamo innanzitutto con noi uno di coloro che ne sono convinti, degli estensori per così dire, cioè il presidente dell'Istituto di Lingua Veneta, e che ha lavorato materialmente alla proposta di legge votata in Consiglio regionale, Loris Palmierini. Buongiorno e grazie. Buongiorno. E poi abbiamo chiesto anche al professor Paolo Feltrin, che insegna scienze politiche all'Università degli Studi di Trieste, che è uno di coloro che seguono da più anni, e che io seguo per capire a propria volta da lui come termometro, rilevatore e interprete, analista, i fenomeni del nord-est del nostro paese. Grazie di essere con noi, professor Feltrin. Grazie, buongiorno. Palmierini, allora, è una nuova tappa di una guerra in cui molte battaglie erano state perse negli ultimi 20 anni, visto che si parlava di federalismo a chiacchiere, oppure è uno strappo di significato politico tanto per dire ai prossimi governi dovete cambiare impostazione? Concretamente ci spiega questa proposta di legge? Sì, subito arrivo al punto. Intanto volevo ringraziarla perché lei è la prima trasmissione che mi permette finalmente di parlare in diretta senza poi stravolgere il significato delle parole, fare un copia e incolla di discorsi per andare fuori tema. E volevo anche ringraziarla per quella volta che poi ha dato notizia del dossier sull'incostituzionalità delle commissioni tributarie, che come sa verranno presto cancellate perché incostituzionali, non so se si ricorda di quello. Sì, mi ricordo, mi ricordo. Perfetto, quindi insomma sono uno che qualcosa ne capisce. Torniamo al punto. Allora, qui non stiamo parlando di federalismo, non stiamo parlando di indipendenza, non stiamo parlando di bilinguismo come è stato spacciato per oltre 3 settimane da cattiva comprensione di alcuni giornali, soprattutto locali qui veneti. Qui stiamo parlando del fatto che la Regione ha riconosciuto, perché poi obbligata dalla Costituzione, che esiste una parte della sua popolazione nel territorio regionale che ha una identità, una storia, un'autoidentificazione, se vogliamo anche una lingua, ma la teniamo per ultima, perché sappiamo che comunque la lingua non è stata riconosciuta, ma comunque c'è un'autopercezione, una autoidentificazione, per cui il fenomeno dal punto di vista giuridico si chiama minoranza nazionale. Sì. Se vogliamo chiamarla seconda nazionalità possiamo far pure, se vogliamo chiamarla nazione minore facciamola pure. Il concetto è che non va vista relativamente alla regione, ma va vista relativamente allo Stato, sì. Perché è la regione che deve stabilire, ma poi lo faranno anche le altre regioni, perché come è noto i veneti sono presenti anche nelle altre regioni, c'è una regione che si chiama Friuli Venezia Giulia, non a caso. Quindi, acquisito lo status, che questo processo è stato un processo, io sono l'estensore totale del progetto di legge, non uno dei partecipanti. Poi la legge inizialmente era leggermente diversa, non di molto, e prevedeva per gli sviluppi futuri che questa legge, l'applicazione di questa convenzione avrà, prevedeva anche il discorso del patentino sul modello un po' del Sud Tirolo, ma è stato stralciato, per cui al netto del discorso lingua, sul quale possiamo tornare dopo, perché comunque in tutta Italia arriverà una rivoluzione linguistica, non solo in Veneto ma in tutta Italia, proprio per le norme europee del Consiglio d'Europa. Fatto questo, praticamente la legge dà lo status di minoranza nazionale, quindi un atteggiamento del governo che deve essere rispettoso dell'identità, rispettoso della partecipazione, rispettoso di tutti quei meccanismi che, se vogliamo, sono ben applicati nel Sud Tirolo, che è un modello internazionalmente riconosciuto di convivenza fra identità diverse, fra anche lingue diverse, di cogestione degli affari fra minoranza e Stato centrale. Se proprio vogliamo chiamarlo federalismo, dovremmo chiamarlo federalismo etnico, non regionale. E comunque è importante evidenziare che saranno i diritti della legge, verranno applicati a chi vorrà dichiararsi appartenente alla minoranza, ma nessuno verrà obbligato né a dichiararsi né a non avrà dei danni perché non è appartenente alla minoranza. Questo è proprio la caratteristica principale della convenzione quadro. Stiamo parlando di una legge ratificata dallo Stato ancora nel 97, che è una convenzione del Consiglio d'Europa, quindi dell'Istituto dei Diritti Umani, e quindi è un qualche cosa che è giuridicamente sovraordinato anche all'Unione, certo, Europea stessa, per la tutela delle minoranze. Esatto, e sono diritti umani, vengono proprio definiti diritti umani, quindi nell'ambito della cooperazione, per cui la sovranità dello Stato viene in qualche maniera messa al pari o addirittura sottoposta a questo discorso. Non bisogna dimenticare che noi veneti abbiamo anche un'importante minoranza in Istria, e ci sono meccanismi di cooperazione, però queste sono cose abbastanza lontane, per cui insomma adesso abbiamo cominciato comunque una nuova tappa storica. Per voi è la prima tappa di un ambito che a questo punto non è il vecchio federalismo regionale sul riequilibrio dei poteri, ma è l'affermazione nel quadro delle regole europee, e quindi tutte le tutele che discendono dal fatto di essere minoranze nazionali. Io faccio notare a chi ci ascolta che nel testo della Costituzione, che resta confermato dagli italiani domenica scorsa, l'articolo 116, il 117 quello sulle competenze Stato, Regioni e così via, il 116 consente rafforzamenti alle regioni di statuto ordinario, anche a non a quelle a statuto speciale, di riconoscimenti di competenze e risorse alle regioni da parte dello Stato centrale, in relazione proprio a cose come questa, quindi è consentito l'ordinamento, è un percorso tutto da costruire. Però il politologo Feltrin c'ha forti dubbi, mi pare di aver capito dai suoi interventi sul giornale di ieri. È così, Feltrin? Ma dubbi nessuno, nel senso che è una norma che in realtà non modifica significa nulla. L'articolo 21 di questa convenzione a cui si fa riferimento dice: nessuna disposizione sarà interpretata come implicante per un individuo o qualunque diritto di darsi a un'attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale, e specialmente alla sovrana eguaglianza, integrità territoriale e alla indipendenza politica degli Stati. È come dire, siamo un comune denuclearizzato, c'è qualcuno che lo impedisce? Nessuno, no? Sì. È semplicemente un po' di soldi spesi in più dai comuni per scrivere sul cartello comune denuclearizzato. La domanda semmai è: perché Zaia lo fa? Perché la regione lo fa? Perché, in fin di conto, legittima l'iniziativa, quindi io non ho nulla in contrario. E no? La risposta che si dà? E ridà, primo perché male non fa, è come scrive comune denuclearizzato, se qualcuno lo vuole e piace è questo, sentirsi... Okay. E secondo? Secondo, per non confondersi con Salvini. Cioè, meglio parlare del Veneto che parlare del razzismo. Ho capito, lei dà una chiave interna al mondo della Lega. Nel senso di darci un'identità propria, insomma, un po' di un riconoscimento un po' diverso da quello nazionale di Salvini, anche per legittime aspirazioni future. No, no, ma capisco, la politica presente e futura. Ma non lo so, io dico che al di là del criterio di lettura interna ai partiti e così via, la questione, tra virgolette, dell'identità in Italia, dei riferimenti territoriali, ha un suo fondamento storico. Questo io lo dico da chi guarda con simpatia a fenomeni dai Paesi Baschi all'Irlanda e così via. È una delle componenti della crisi che ha portato all'esplosione europea, non a caso, vedete Brexit e rapporti anche tra inglesi e scozzesi. Detto tutto questo, siccome credo che per 20 anni sia fatto strame di tutte queste cose in nome di interessi del partito, mi auguro che questa volta la lezione appresa sia basta corrente interna di partito e parliamo di cose dal punto di vista serio, degli interessi ad avere amministrazione magari più radicate sul territorio. Non è questa l'area che tira in Italia. Comunque, grazie ai nostri ospiti, continuate su Radio 24, appuntamento con me alle 4:30 oggi con la versione di Oscar e domani mattina dalle 10 alle 12 con i conti della Belva.